senza una spinta, la tristezza sale e sopra di me l'anima brandelli senza il mio io, una foto senza soggetto. Mangiamo sale, mi sento male, un burattino senza fili cade giù per terra, non si rialzerà e non si rialzerà. E se le parole fossero fumo, le bestemmie riempirebbero le nostre bocche. Quando anch'io sarò arrivato al mio compito personale, quando anch'io sarò.